Dies veni, dies illo, salve seclum in favillo, testimi David cum sibillo. Quantus tremores futurus, quanto iudes est ventus. Benvenuti a tutti a quest'ultima sessione del nostro convegno su inferno e dintorni, è possibile un'eterna dannazione? La domanda che abbiamo messo nel sottotitolo è retorica, in effetti non è per mettere in discussione se è possibile la dannazione, ma per capire in che modo e perché è possibile. Dio offre a tutti la salvezza, ma alcuni non la colgono a causa di quel mistero di iniquità che opera e purtroppo imperversa. Siamo arrivati a quest'ultima sessione e la prima conferenza di questa mattina, una conferenza molto impegnativa, riguarda un autore, Hans Urs von Balthasar, che oggi riveste una importanza molto molto centrale sulla questione dell'inferno. È un autore che, a differenza, diciamo, degli altri teologi più in vista e più seguiti come Schielebeck e Rahner, è molto molto seguito soprattutto nella questione dell'inferno vuoto. L'inferno c'è, ma sarebbe vuoto. Come ci spiegherà il professor Anderegen, con cui ho avuto modo un po' di parlare su questa questione, il problema è molto molto più profondo dell'inferno vuoto. E purtroppo c'è questa posizione, la posizione baltasariana porta addirittura l'inferno nella Trinità, il che è molto, suscita in noi sconcerto e nello stesso tempo grande interesse nell'ascolto di questa relazione. Presento il professor Ignazio Anderegen, prima di dargli la parola, dottore in filosofia e teologia presso la Pontificia Università Gregoriana e professore nella facoltà di teologia e di filosofia di questa medesima università. È impegnato come professore di metafisica e teologia anche nella facoltà di lettere e di diritto dell'Università Cattolica dell'Argentina e argentino. È membro della Pontificia Accademia di San Tommaso, ha pubblicato diverse opere, molte opere, ne accenniamo soltanto qualcuna, la Metafisica de Santo Tomás e la Exposición sobre de Divinis Nominibus de Dionisio Areopagita, 1989, Introduzione alla Teologia de Tomás de Aquino, 1992, Hegel y el Catolicismo, 1995, arrivando un po' più a noi, anche Sacerdozio e pienezza di vita, Teologia e spiritualità sacerdotale nel Concilio Vaticano II e in San Tommaso d'Aquino, Roma 2003, Teoria del conoscimento morale, Lecciones de Gnoseologia, Buenos Aires 2006, alcune soltanto delle sue opere, che lo vedono molto impegnato nello studio, nella pubblicazione. È un autore di grande rilievo, il professor Anderegen, ed è un esperto del pensiero di von Balthasar. Quando chiesi a Monsignor Gherardini chi potesse tenere questa lezione su von Balthasar, subito mi indicò il professor Anderegen e mi disse, tra l'altro, che in un convegno in Argentina il professor Anderegen espose il pensiero di von Balthasar ed ebbe un applauso lungo un quarto d'ora. Ora con grande interesse ascoltiamo la sua relazione. Bene, il materiale è molto, l'importanza del tema è grande. Dato lo sconcerto che provoca il pensiero di von Balthasar nelle sue affermazioni centrali, dovrò appoggiarmi molto sui testi. Perciò Il metodo di questa conferenza sarà quello di presentare le idee centrali a partire dai testi. Sappiamo che il pensiero di von Balthasar è ampiamente diffuso e che ha un'importanza fondamentale anche nella costituzione di una specie di neo-ortodossia che si è formata negli ultimi tempi come contrapposizione al dilagare di altre concezioni manifestamente opposte alla verità della tradizione. Tuttavia, proprio per il fatto che von Balthasar è considerato un autore in qualche maniera ortodosso, cioè conforme alla tradizione, diventa più pericoloso, perché gli errori, che sono veramente profondi, possono entrare in una maniera più sottile e in qualche modo fare più danno. Bisogna dire subito che non studierò tutto il pensiero di von Balthasar, che come in ogni autore bisogna considerare nella sua evoluzione, mi fermerò soltanto alle ultime tappe di questo pensiero, dopo il concilio, e poi mi fermerò ad alcuni punti principali, specialmente il tema dell'inferno. Tuttavia, questo tema dell'inferno è in qualche modo onnicomprensivo in von Balthasar, al punto tale che si potrebbe dire che la sua concezione teologica è un'infernologia. Abbiamo all'inizio un primo punto che riguarda il ruolo di Adrienne von Speyer come ispiratrice di von Balthasar, specialmente in ciò che concerne la spiegazione dell'inferno. Von Balthasar presenta la sua teologia in unione con quella di questa donna, che sarebbe mistica, secondo lui, e che ha scritto molte opere, o piuttosto le ha scritte lui quando lei dettava. Sono tantissimi volumi di queste opere. Mi fermo in primo luogo ad una pubblicazione degli inizi degli anni 90, fine degli anni 80, Hans Urs von Balthasar, figura e opera. In questa pubblicazione, fatta dopo la morte nell'88, confluiscono quattro attuali cardinali. Perciò voi potete capire l'importanza per la vita della Chiesa che ha questo discernimento. I primi due cardinali sono Karl Lehmann e Walter Kasper, che all'epoca non erano cardinali, erano teologi e vescovi già. Questi due sono i curatori dell'opera. L'altro quasi cardinale è lo stesso von Balthasar, perché è morto due giorni prima di ricevere il cappello. Il quarto cardinale è il cardinal Ratzinger, che ha fatto l'orazione funebre pubblicata alla fine di questo volume. Bisogna però dire che il cardinale Ratzinger dice esplicitamente che non fa l'omaggio alla dottrina di Balthasar, ma che compie un dovere di carità cristiana. Dunque, e poi vedremo che certamente non coincide la dottrina del cardinale Ratzinger e quella di von Balthasar, anche se von Balthasar spesso cita Ratzinger. Passiamo dunque ad alcuni punti che riguardano la connessione tra Balthasar e la von Speyer, specialmente importante per quanto concerne l'inferno. Troviamo un articolo di Johann Rothen, Le due metà della luna, le dimensioni antropologiche mariane nella comune missione di Adrian von Speyer e Hans-Urs von Balthasar. Dice l'autore che una seconda ricognizione di questo autentico continente teologico è da sempre mancante. Facciamo menzione solo di alcuni degli aspetti che ancora devono essere investigati. Il Balthasar è autore di quella che è probabilmente la più grande sintesi della teologia cattolica di questo secolo. Il Balthasar, esploratore della relazione fortemente drammatica tra la libertà umana e quella divina nella storia della salvezza, colui che ha fornito il ritratto più penetrante dell'ermeneutica divina e della kenosi dell'amore, ma forse soprattutto la simbiosi psicologica e teologica con Adrian von Speyer e la sua forma intellettuale profondamente mariana. Von Balthasar presenta la sua opera e la sua persona in simbiosi affettiva, teologica, psicologica con questa signora, Adrian von Speyer, e questa simbiosi ha delle caratteristiche inquietanti dal punto di vista spirituale. Dice lo stesso autore, Hans-Urs von Balthasar considera la pubblicazione di queste opere probabilmente come il compito più importante della sua vita. Si riferisce alle opere della von Speyer. Arriva perfino a far sì che l'attenzione rivolta ai propri lavori giunga solo dopo una seria considerazione delle opere di Adrian von Speyer. E qui bisogna fare attenzione. Questa intima convinzione è sottolineata in modo concreto dall'angelo annunciatore, che si rivolge in questi termini ad Adrian von Speyer dopo la sua prima esperienza pasquale del 1941, dice l'angelo annunciatore. In certi casi l'attenzione di Hans-Urs von Balthasar sarà assorbita completamente. Entrambi nel momento opportuno siate pronti a sacrificare anche quel poco che vi rimane, con gioia e docilità, poiché non vi sarà mai concesso di essere vili né riguardo alle questioni importanti né a quelle di importanza minore. Loro due dunque ricevono un messaggio dall'angelo, che sarebbe l'angelo dell'Annunziazione. Vedremo però se questo angelo è un angelo buono o un angelo cattivo. Dice ancora l'autore, tutto questo è pubblicato da Casper e da Lehmann. Una volta, poiché Hans-Urs von Balthasar, durante uno dei loro dettati, mostrava segni di stanchezza e distrazione, Adrian von Speyer gli rammentò i suoi doveri di direttore spirituale. Dunque lei era diretta, però rammentava i doveri del direttore spirituale. Posso fare ciò solo attraverso un'assoluta apertura nei tuoi confronti. Devo essere capace di rendere la mia anima trasparente fino in fondo di fronte a te. Non dovresti chiudere la tua mente innanzi a ciò che sta succedendo, poiché io devo pregare e contemplare davanti a te. Questo può avvenire solo nel perfetto amore. Questo diceva la von Speyer. E continua Rothen. Persino la preghiera riflette la loro simbiosi psicologico-spirituale, a tal punto che l'azione della grazia, prematuramente interrotta da Hans-Urs von Balthasar, turba Adrian von Speyer. Ella osservò solo più tardi, sottolinea Hans-Urs von Balthasar, fino a che punto la nostra preghiera formava un'unità. In maniera ovvia, senza che nessuno di noi ne fosse conscio. Bisogna anche indicare che Balthasar e von Speyer abitarono insieme durante quasi 30 anni. Lui abitava nella casa del marito di lei, che era il secondo marito, un allievo del primo, che era un professore di storia, morto. E lui ogni sera prendeva gli appunti dei dettati della von Spee. Uno degli episodi più commoventi di questa amicizia risale alla Quaresima del 1944 ed è ricordato da Hans-Urs von Balthasar in questi termini. Lei, Adrian von Speyer, taceva e rimase così per lungo tempo. Poi all'improvviso afferrò di nuovo la mia mano ponendola in una mano invisibile. Fece questo per ben due volte. In entrambi i casi affermò trattarsi della mano del Signore. Non appena si riebbe un poco, ella aggiunse: «Tu non puoi immaginare quanto sia bello porre la mano di qualcuno in quella del Signore. Non vorrei fare altro per l'eternità». Poi lei trasmetteva i messaggi di Sant'Ignazio di Loyola. Lui era gesuita, dunque discepolo di Sant'Ignazio di Loyola. Secondo la sua visione dovette uscire dalla compagnia di Gesù e dunque obbedì direttamente a Sant'Ignazio, senza obbedire a Sant'Ignazio attraverso i superiori della compagnia di Gesù. Dice ancora Rotten: «La chiave di lettura per comprendere a fondo queste affermazioni viene data dallo stesso Sanctus Pater Noster, Sant'Ignazio di Loyola, a cui Hans-Urs von Balthasar aveva chiesto, naturalmente attraverso la mediazione di Adrian von Speyer, perché Adrian von Speyer ebbe ad aspettare così a lungo la conversione, perché era una donna protestante che poi diventò cattolica. Ecco la spiegazione di Sant'Ignazio. Parla Sant'Ignazio attraverso la von Speyer. La missione di Hans-Urs von Balthasar era già progettata? Era egli pronto per affrontarla? Adrian von Speyer doveva aspettare poiché necessitava di ricevere la sua formazione cattolica da Hans-Urs von Balthasar. Solo allora le loro missioni sarebbero state combinate e congiunte». Poi abbiamo molti altri più testi, ma mi fermo ad un altro che sottolinea l'aspetto immaginario della detta mistica della von Speyer e di von Balthasar. Nelle visioni e nell'immaginario di Adrian von Speyer, la genesi della comunità è esperita ed è scritta come un tempo di gravidanza, dove la comunità rappresenta il nascituro, Adrian von Speyer la madre e Hans-Urs von Balthasar il padre. La nascita della comunità si riferisce ad un istituto che loro dovevano fondare. Il rapporto dunque tra loro è presentato come quello della gestazione di Cristo e dunque della Vergine Maria, che genera il figlio. Ella è incoraggiata da Ignazio e da Hans-Urs von Balthasar a parlare di questa gravidanza, oltre che ad esplorare le differenti sfaccettature riguardanti la relazione fra uomo e donna uniti per una comune missione. Con molta insistenza il lavoro apostolico in comune è presentato tanto da Hans-Urs von Balthasar quanto da Adrian von Speyer come elemento di complementarietà fra uomo e donna. Nuove intuizioni, progetti ed iniziativa animano l'attività di Adrian von Speyer, mentre Hans-Urs von Balthasar funge da filtro teologico grazie alla sua conoscenza, saggezza e prudenza, eccetera. Parla Sant'Ignazio attraverso di lei. Hans-Urs von Balthasar potrebbe comunque far notare ad Adrian von Speyer che la loro doppia missione è stata ufficialmente confermata. È una nuova base per la fecondità nell'intimo e nell'ambito della Chiesa. Ignazio continua a dare ordini a von Balthasar, non attraverso i superiori che non aveva più, ma attraverso la von Speyer. Ignazio osserva che ciò si addiceva a una missione a due. Poiché entrambi erano vergini, questo risultava per la donna il modo di essere designata dal segno dell'uomo. Dunque si riferisce alle stimmate che aveva ricevuto questa von Speyer. Dunque, in un'analogia sessuale, fa riferimento al segno che l'uomo mette nella donna. Sarebbe queste stimmate. Questa donna avrebbe riavuto la verginità, perché era sposata due volte, ma dopo risultava che tutti e due erano vergini. Lo stesso simbolismo concreto di uomo e donna è reinterpretato nei termini di categorie teologiche per spiegare la sua missione con Hartzius von Balthasar. Adrian von Speyer paragona se stessa alla Chiesa che fu data a Cristo da Dio Padre. Nel confronto, Cristo sta per Hartzius von Balthasar per essergli compagna sulla terra, in modo che egli possa avere sulla terra un segno della presenza del Padre, eccetera. Ci sono molti altri riferimenti che si trovano in questo libro pubblicato da Lehmann e da Casper, facilmente reperibile. Ma vorrei andare avanti, entrare nella vera e propria teologia di von Balthasar, nella quale troviamo un aspetto ampiamente diffuso, molto importante nella concezione teologica odierna. Si tratta della teoria della kenosi, che in Balthasar è fondamentale, sia per spiegare la cristologia, sia per spiegare la dogmatica trinitaria. Sappiamo che nella lettera ai Filippesi San Paolo parla del figlio che è venuto verso di noi, verso il nostro vuoto, che è il kenos. Una certa concezione teologica derivata dal protestantesimo, anche attraverso l'influsso che il protestantesimo ha avuto nell'ortodossia russa, ha portato a molti teologi, soprattutto dopo von Balthasar, ad interpretare questa kenosi come uno svuotamento del figlio, che sarebbe anche lo svuotamento della divinità del figlio. Questo è contrario al testo biblico. In primo luogo, nel testo non si parla di kenosi come sostantivo, questa parola non esiste nella Sacra Scrittura. Si usa un verbo, ekenosen heauton morphen dulu lavon, cioè l'azione di Dio che viene verso il vuoto, il che è proprio il contrario di ciò che dice la parola svuotamento. È Dio, la pienezza di Dio, che è tanto grande, infinita, che arriva al vuoto dell'uomo. Balthasar però segue l'interpretazione protestante, anche attraverso la teologia di Karl Barth, che ha influito tanto nella sua, e questo è molto più importante, ha diffuso questa concezione nella dottrina teologica attuale. Quasi tutti ormai capiscono l'incarnazione del Verbo almeno come segnata da questa concezione. Dice un autore che interpreta questa diffusione della dottrina, e la interpreta autorevolmente, e di nuovo in questo stesso libro pubblicato da Lehmann e da Casper: ora, la determinazione della kenosis è in Balthasar assai differenziata. Egli parla di tre forme di kenosis, delle quali la prima è quella intratrinitaria, che come tale fonda anche tutte le altre. Di essa vale perciò, e cita la Teodrammatica, volume terzo di Balthasar: con questa kenosi originaria, ur kenose, sono fondamentalmente rese possibili le altre tre kenosi di Dio nel mondo, che sono pure e semplici conseguenze di essa. Essa viene determinata da Balthasar come la generazione del figlio consustanziale, al quale l'Eterno Padre si dona totalmente e di fronte alla quale egli rinuncia perciò all'autopossesso della divinità da solo. Dunque, la generazione del Verbo non è un atto appunto di generosità, di donazione della pienezza che Dio ha, perché la possiede il Verbo, ma al contrario è una rinuncia della divinità, già nel Padre. Ma poi questo si compie anche nello Spirito Santo. Compiendosi perciò il Dio duale unico nello Spirito Santo kenoticamente, è allora reperito il presupposto intradivino per comprendere le forme economiche del descensus divino, divino come kenosi di Dio stesso e non come semplici esibizioni e astratte apparizioni. Solamente infatti se Dio è kenotico in sé, non verrà allora superato da alcun descensus kenoticamente determinato e nemmeno da alcun evento che si verifichi nella sua creazione. Venendo costretto ad una qualunque cosa. Questo dice il teologo Wolfgang Trailer, interpretando adeguatamente, ma non del tutto profondamente, la teologia di Baltasar, soprattutto in quanto lui si identifica con questa teologia e pretenderebbe che fosse corrispondente alla tradizione. Come si realizza questa kenosi? Con questo la seconda kenosi ha trovato il suo luogo, la creazione, in quanto per amore dota il suo altro della libertà dell'autocompimento che nell'uomo acquista la sua punta negativa allorché essa all'interno della kenosi originaria, divina, non vuole riconoscersi indipendente ed evitrice nei confronti di essa, ma vuole invece raggiungere un'astratta autonomia. E qui incomincia il discorso sull'inferno. Questa si può considerare per Baltasar come la terza kenosi e allo stesso tempo come quella kenosi che in termini economici pone il presupposto intradivino. Il figlio incarnato che sulla croce si offre totalmente sta nel mondo come autodiscesa di Dio, in cui si scatena violentemente il confronto della gratuità abissale dell'amore divino con la gratuità abissale del peccato umano. Il vertice di questa kenosi è raggiunto nella morte di Gesù, in cui per lo stesso inviato divino si spegne ogni speranza verso il suo Dio. Dunque, Cristo, quando discese negli inferi, non ha avuto più speranza. Perché, secondo Baltasar, Cristo è disceso veramente nell'inferno, che è l'unico inferno che lui considera, cioè l'inferno dei condannati. Sappiamo però che, secondo la tradizione, ci sono quattro inferni. Dunque, l'inferno come limbo dei patriarchi, che non godevano ancora della visione di Dio per il peccato originale dell'umanità, anche se erano giusti, il purgatorio, il limbo dei bambini, è l'inferno dei condannati. Sappiamo che Cristo non è disceso agli inferi allo stesso modo per quanto riguarda questi quattro inferi, ma in un modo diverso, perché certo lui non è disceso nell'inferno dei condannati per diventare uno di loro, come invece fa capire von Baltasar. E non soltanto uno di loro, ma il peggiore di loro. Andiamo avanti perché dobbiamo raggiungere la considerazione dei testi stessi di Baltasar. Andiamo dunque alla prima opera che bisogna considerare riguardo alla concezione dell'inferno, Sperare per tutti, pubblicata nel 1981. Quest'opera è quella che ha fatto più discutere, tuttavia non è la più importante, perché la concezione di Baltasar sull'inferno si trova piuttosto nelle opere sistematiche maggiori, e specialmente nella teodrammatica, come vedremo. Qui basta sottolineare che lui stesso A pagina 14, dopo la discussione che si è presentata per le sue affermazioni sull'inferno, che alcuni hanno capito nel senso che sarebbe vuoto, afferma che in realtà, se si considerano le opere maggiori, ci sarebbe molta più base per uno scandalo. Infatti dice: lo stupore manifestato dai due fogli dimostra che non hanno mai preso conoscenza delle mie opere maggiori, nelle quali da un bel pezzo si sarebbe potuta trovare abbondante legna per il mio rogo. Dunque, sta dicendo Baldassar, siete degli ingenui, perché se vi scandalizzate per quello che ho detto in quest'opera, Sperare per tutti, vuol dire che non avete capito quello che ho scritto nelle opere principali. E purtroppo è vero. Perché se avessero capito, i lettori l'avrebbero potuto mandare al rogo, come a Giordano Bruno. Riassumiamo la concezione di sperare per tutti. Qui fondamentalmente dice che la dottrina sull'inferno, così come è ricevuta nella Chiesa Cattolica, dipende da Sant'Agostino, che l'ha trasmessa a tutta la teologia posteriore, includendo San Tommaso d'Aquino. Questa concezione, secondo Baldassar, è sbagliata, perché mette da una parte il cielo con i salvati e dall'altra parte l'inferno con i condannati. Lui interpreta la Sacra Scrittura, il Nuovo Testamento, e dice che nel Nuovo Testamento ci sarebbero molti testi che indicano che tutti si salvano e ci sarebbero molti testi che indicano che ci sono persone che non si salvano. Questi due testi, queste due serie di testi sarebbe contrapposta e la verità sarebbe una specie di sintesi. Lui certamente attacca sempre Hegel, ma fondamentalmente ha una concezione profondamente segnata dall'eredità dell'idealismo tedesco e forse di alcune radici ancora peggiori nella cultura tedesca di quelle dell'idealismo. Ricordiamo che la prima opera di Baldassar riguarda proprio l'escatologia e si chiama L'Apocalisse dell'anima tedesca, è la sua tesi. Questa tesi, come è attestato anche da questo libro, ha destato scandalo perfino nei protestanti quando è stata pubblicata, perché faceva degli accostamenti che loro trovavano assolutamente inaccettabili, ad esempio tra certi autori tedeschi che piuttosto sono dei bestemmiatori, con i profeti dell'Antico Testamento, eccetera. Comunque, in Sperare per tutti, Baldassar mette da una parte l'autorità di Sant'Agostino e di San Tommaso, che riassumono la concezione teologica della tradizione, contro quella di Adrian von Speyer. E dunque avrebbe ragione Adrian von Speyer contro Sant'Agostino, San Tommaso e naturalmente tutti gli altri autori teologici della tradizione. Lo possiamo vedere in primo luogo riguardo a Sant'Agostino, a pagina 46 di Sperare per tutti. Qui si dice: tenuto conto di ciò, non meraviglia più ormai il fortissimo accento posto in seguito da Agostino sulla realtà non solo dell'inferno ma anche dei suoi numerosissimi abitatori. E non di meno ciò rappresenta una svolta nella storia della Chiesa, nella misura in cui Agostino interpreta i testi in questione, cioè del Nuovo Testamento, in modo tale da mostrare che egli sa, che conosce, cioè l'esito del giudizio divino. E tutti quelli che sono inchinati alla sua autorità, a partire da Gregorio Magno, attraverso i secoli iniziali e centrali del Medioevo, senza escludere Anselmo, Bonaventura e Tommaso, fino ai riformatori e ai giansenisti, diventeranno i detentori di questo sapere, partendo dal quale, come da una base assolutamente sicura, costruiranno le loro ulteriori speculazioni sulla doppia predestinazione divina posto ante previsa merita. Questo naturalmente non è vero, perché non c'è una doppia predestinazione in Sant'Agostino o in San Tommaso, che la nega esplicitamente. Lui fa un'operazione di distorcimento nella presentazione di queste dottrine, niente meno che di questi autori, dunque Sant'Agostino, San Bonaventura, San Tommaso, Sant'Anselmo, Gregorio Magno, sarebbero tutti sbagliati riguardo alla dottrina dell'inferno. Ma bisogna sottolineare che il metodo teologico di von Balthasar è sempre così, è dialettico, lui mette sempre uno contro l'altro i santi, oppure quelli che secondo lui occuperebbero il luogo dei santi, come la von Speyer. Dunque c'è una concezione assolutamente dialettica, interiore alla tradizione e alla spiritualità. Bisogna dire che von Balthasar non è un grande teologo, non ha mai fatto una tesi in teologia, non ha mai insegnato teologia e poi soprattutto non usa un vero metodo teologico, non c'è metodo, l'unico metodo è la sua soggettività. Non c'è una considerazione della Sacra Scrittura adeguata, non c'è una considerazione della tradizione in modo serio, non c'è un vero ragionamento teologico, non c'è logica, anzi lui attacca la logica, e quando non c'è logica è chiaro che non c'è il logos, che è l'autore della logica, della ragione umana. Questo non si può chiamare teologia nel senso vero e proprio del termine, è piuttosto la esternazione di una esperienza che sarebbe quella che avrebbe piuttosto la von Speyer, che lui riconosce come ispiratrice. È vero, De Lubac ha detto che sarebbe l'uomo più colto del XX secolo, dipende come si intenda la cultura, perché la cultura significa in primo luogo pensiero, non c'è cultura senza logica e non c'è teologia senza metodo. Certo, non dobbiamo cadere nel primato del metodo di Cartesio, ma se non c'è nessun metodo vuol dire che la ragione non c'è, e se non c'è la ragione non c'è la teologia, che si basa nella rivelazione del Verbo incarnato. Lui è erudito, ma l'erudizione non è la stessa della scienza. Lui conosce tanti autori, ma nessuno di questi autori in genere li interpreta nel senso della mente dell'autore, soprattutto quelli principali. Se voi guardate ad esempio in Gloria come lui capisce San Tommaso, vedrete che non corrisponde assolutamente a ciò che San Tommaso vuole dire. Poi San Giovanni della Croce in Gloria è presentato in un modo che ancora di più non corrisponde a ciò che San Giovanni della Croce dice, soprattutto perché San Giovanni della Croce dice che non bisogna appoggiarsi sulle televisioni e su queste rivelazioni. Dunque specialmente non gli piace San Giovanni della Croce. Ma poi c'è il problema di Sant'Agostino, che sarebbe la causa di tutti i mali della teologia attuale nel senso di quella dopo la patristica, che lui naturalmente contrappone alla teologia medievale in modo dialettico. Vediamo ancora a pagina 50-51, Sant'Agostino sarebbe andato fuori il Vangelo. Dice Balthasar: se ciò è vero, e la grande tradizione ha sempre visto in questa luce il grande padre dell'Occidente, Allora neppure le sue dure proposizioni escatologiche, che si sarebbero ancor più irrigidite in pieno Medioevo, possono considerarsi semplicemente come una rinuncia al più intimo sentire del suo animo. La convinzione di dover far prorompere con tale estremismo il suo ammonimento di fronte al rischio della dannazione rientrava nella sua ardente sollecitudine per le anime. La sua battaglia non era diretta solo contro il lassismo, ma anche molto giustamente contro la temeraria speranza dei padri della Chiesa sopra ricordati, che i cristiani, anche quando commettessero peccati gravi, non avessero da temere alcuna condanna definitiva. Ciò doveva essere respinto. Solo dobbiamo rammaricarci che un uomo così grande, e ai quali i posteri devono così tanto, non vi abbia provveduto entro i limiti tracciati dal Vangelo. Dunque la teologia di Sant'Agostino non corrisponde al Vangelo, e sarebbe quella che poi ha influito sui grandi autori, San Bonaventura, San Tommaso, eccetera. Passiamo a San Tommaso. Tutta l'opera, Sperare per tutti, se si può chiamare opera, perché in realtà è una descrizione di ciò che viene alla mente di von Balthasar, e questo lo si vede in tutte le opere di von Balthasar, dunque basta analizzare i titoli, non c'è nessun criterio logico nella presentazione dei titoli. Comunque, tutta quest'opera finisce nel rifiuto della concezione di San Tommaso sull'inferno, che sarebbe dipendente giustamente da Sant'Agostino. E lo troviamo proprio nell'ultima pagina. Com'è? Fa normalmente Balthasar nella sezione corrispondente a San Tommaso dell'opera, lui non spiega ciò che vuole dire veramente, lo spiega in un altro posto, dunque alla fine del libro. Qui dice: mi sembra corretto accontentarsi di questo atteggiamento esistenziale. Chi vuole spingersi oltre va a finire nel territorio del non più pensabile, che è l'accusa che dà lui, che fa lui a Sant'Agostino e a San Tommaso, che si sono spinti nel territorio del non pensabile, dunque che hanno detto quello che non si poteva dire, e perciò non hanno ragione. Ad esempio, che Dio raggiunge il suo scopo anche allorquando, per mezzo dell'inferno, viene glorificato non il suo amore, ma pur tuttavia la sua giustizia. Oppure che egli continua ad amare eternamente i dannati, cosa che precisamente costituisce la loro pena. Oppure che egli sì li ama, ma non ha alcuna compassione per loro, e quelli che sono beati presso di lui vieta di avere simile compassione. Oppure con Tommaso d'Aquino, che in cielo non si può essenzialmente avere più alcuna compassione, poiché compassione presuppone una partecipazione al dolore dell'oppresso, cosa che diminuirebbe la beatitudine. Lasciamo stare simili idee impensabili e limitiamoci a stare definitivamente sotto il giudizio di Dio. Io non giudico nemmeno me stesso, dice Paolo, il mio giudice è il Signore. Non vogliate perciò giudicare nulla prima del tempo, prima che venga il Signore. Egli metterà in luce anche ciò che ancora rimane nascosto nelle tenebre. E ancora Giovanni, dobbiamo avere fiducia nel giorno del giudizio. Dunque, tutta l'opera è una disquisizione dialettica, senza una vera logica, cioè la logica che corrisponde alla verità delle cose. E il risultato è che quelli che hanno ragionato logicamente, come Sant'Agostino e San Tommaso, si sono sbagliati, perché hanno cercato di esprimere l'azione di Dio sulla libertà umana dunque sull'elezione umana in questi modi, che corrispondono alla giustizia e alla misericordia di Dio come si riflette nella creazione. Nelle frasi di Baltasar citate c'è un riferimento diretto alle affermazioni di San Tommaso d'Aquino nella Somma Teologica. Solo che quelli che studiano von Baltasar oggi non lo sanno, perché non sanno che cosa dice la Somma Teologica. Passiamo a un quarto punto, l'essenza dell'inferno. Che cosa è l'inferno? Ancora in Sperare per tutti, dove però non è manifestato il fondo del pensiero. Bisogna premettere che nell'inferno non c'è il diavolo, perché il diavolo non è persona per von Baltasar. Dunque non ci sono degli esseri personali che sarebbero i demoni, anche se poi questi demoni ricompaiono più avanti, addirittura dentro Dio, perché lo Spirito Santo in fondo si identifica con il diavolo. A pagina 103 vediamo ad esempio un problema completamente diverso, è quello di sapere fino a che punto il concetto di persona possa ancora adattarsi all'essere diabolico. La nozione di persona presuppone sempre un rapporto positivo a un'altra persona, una forma di simpatia o quantomeno di naturale inclinazione e partecipazione. Ma proprio questo non si può più affermare di un essere che si sia schierato totalmente e radicalmente contro Dio, l'amore per essenza, così che si dovrebbe parlare con Josef Ratzinger di una non persona. Certo, lui non cita Ratzinger nel senso in cui vuole Ratzinger esprimersi quando ancora non era nemmeno cardinale, cioè quando aveva scritto un libro di escatologia. Quello che vuole dire Baltasar è che la realtà del male è una realtà impersonale, nel senso che non c'è una consapevolezza intellettuale, non c'è un amore volontario e dunque non c'è una sostanza alla quale corrispondono questi atti, che è la sostanza costitutiva della persona. Purtroppo lui questa non personalità dei demoni la spinge fino al punto che nella sua concezione di trinitaria difficilmente alla fine si riconosce la personalità delle tre persone. Cosa è dunque l'inferno? L'inferno è qualcosa che scompare in sé e ricompare in Dio, perché lui fa una specie di contrapposizione tra il tempo e l'eternità, e in questa contrapposizione l'eternità permane e il tempo scompare. Dunque, l'inferno, nel senso ortodosso, in cui lo capisce Sant'Agostino e San Tommaso, scompare. E in questo senso si potrebbe dire che l'inferno è vuoto. Purtroppo per von Baltasar non è vuoto nel senso in cui parla lui dell'inferno, che è un altro, dunque non quello della tradizione. Perché infatti nell'inferno c'è addirittura il figlio di Dio. E dunque nell'inferno ci sono tutti quelli che partecipano alla condizione del figlio di Dio, dunque i cristiani. La mistificazione che lui fa del pensiero della tradizione trova un punto di appoggio appunto in San Giovanni della Croce, che, come ho detto, lui capisce in un senso totalmente pervertito. Vediamo in gloria, a pagina 149, parla di quel disegno della croce fatto a matita da San Giovanni della Croce, in cui Cristo pende e guarda il mondo dall'alto e dice: l'immagine risulta intelligibile solo se ci rappresentiamo il corpo non pendente in senso verticale, come nei soliti disegni della croce, ma vediamo i bracci della croce giacenti orizzontalmente e vediamo il corpo pendente come via di lì e con le mani e i piedi va sprofondando nelle tenebre della notte di Dio, del mondo e dell'inferno. Certo, San Giovanni della Croce parla della notte oscura dello spirito, ma questa è un'altra cosa, non è l'inferno. Prima di tutto, Cristo non è passato attraverso la notte oscura dello spirito, perché lui non aveva niente da purificare. La sofferenza di Cristo era tutta causata dai peccatori e dal peccato del mondo. Era il più grande di tutti i dolori, ma non era l'inferno, era proprio quello che vince l'inferno. Perciò i grandi autori teologici della tradizione dicevano che Cristo godeva la visione beatifica quando lui era in croce, perché proprio attraverso la croce lui ci trasmette la forza della gioia, del godimento di Dio, che è quello che fa vincere il peccato, la tristezza, l'angoscia, eccetera. Dunque, qui c'è una profonda perversione del messaggio di San Giovanni della Croce. Lui usa permanentemente il simbolo della notte oscura, cioè Baltasar, per dire il contrario di ciò che diceva San Giovanni della Croce. Andiamo avanti. Cordula, il caso serio. Libro di von Baltasar dice: la croce è l'autoglorificazione dell'amore di Dio nel mondo. Lo si può comprendere soltanto se si riflette con fede sull'avvenimento nascosto della croce, portando tutti i peccati, e ciò lo precipita nella più oscura di tutte le notti. L'amore eterno si pone nelle tenebre estreme dell'abbandono di Dio, per dimostrare nella estrema debolezza d'essere più forte di tutta la colpa del mondo. Non soltanto la morte corporale, ma anche l'esperienza di ciò a cui porta il peccato viene subita come una manifestazione dell'amore eterno e quindi della vita eterna. L'estrema involontarietà dell'esperienza della sofferenza, all'inchiodamento fisico corrisponde l'incatenamento spirituale, molto più terribile. Rimane funzione di una estrema volontarietà, eccetera. Dunque, Cristo è sprofondato nella notte più estrema, nell'oscurità più assoluta, perché infatti si è separato dal Padre. Dunque è lui che è entrato nell'inferno. E questa separazione dal Padre non è qualcosa di estraneo al Padre, e nemmeno è qualcosa di estraneo allo Spirito, come dice lui. In genere non dice Spirito Santo, dice Spirito. È lo Spirito che produce questo, perché c'è un'inversione trinitaria. L'inversione trinitaria significa che il Figlio dipende dallo Spirito Santo, non come dice la fede ortodossa, cioè che lo Spirito Santo procede dal Padre e dal Figlio. Dunque la verità si può esprimere come una dissonanza musicale. La grande musica è sempre drammatica, crea continuamente delle tensioni e le risolve in un livello più alto. Beh, questo è Hegel. La dissonanza però non è cacofonia. Dunque questa dissonanza avrebbe il suo origine, anzi sarebbe costitutiva di Dio stesso. E qui compare l'ispirazione protestante di Baltasar. L'ultima prova di rottura è la croce, dice nella Verità e Sinfonica, poiché Dio vi si nasconde sub contrario. Lutero. Ma nella croce c'è soltanto la sofferenza, nella permanente identità dell'obbedienza. Non c'è più la rivolta di Giobbe. Il Dio accusa se stesso di contraddizione. Non c'è nessun modello di contestazione intra-ecclesiale. Vediamo un'altra opera piccola, Con occhi semplici. Ci sono tanti testi, ma possiamo andare direttamente a pagina 471. A chiunque presta ascolto a quanto afferma il Nuovo Testamento, dovrebbe essere chiaro che l'assunzione del giudizio sul mondo peccatore all'interno del rapporto tra padre e figlio, con la collaborazione qui essenziale dello Spirito Santo, è un'opera del sommo amore trinitario. Dunque, Dio nella Trinità assume il giudizio sul mondo peccatore, cioè lo assume nella relazione tra il Padre e il Figlio, e questo lo produce lo Spirito Santo. Certo, è chiaro che Dio non è più immutabile, perciò dice: soltanto la terribile possibilità e realtà del rifiutarsi da parte della libertà finita, l'amore infinito, non è qualcosa che questi potrebbe cancellare con un gesto innocuo e indolore di perdono, ma esige, qui Anselmo ha ragione, un accomodamento da entrambe le parti, da parte di Dio e da parte dell'uomo, cioè una nuova stipulazione dell'alleanza conclusa tra il cielo e la terra. Dunque, questo che avviene nella Trinità è un cambiamento di Dio, al passo che cambia il rapporto suo con le cose. Che egli poi, cioè Cristo, cava in un'angoscia mortale fino a sudare sangue, non è un fatto psicologico ma teologico. Perciò appunto si è dovuto prendere distanza da quelle teorie più blande e edulcorate secondo le quali sulla croce Gesù avrebbe soltanto tirato l'ultima conseguenza della sua solidarietà da sempre già attestata con i peccatori, eccetera. Cosa è questa solidarietà con i peccatori? Naturalmente sulla croce è in gioco la solidarietà di Gesù con i peccatori, ma questa parola oggi di moda è tuttavia essenzialmente troppo debole per poter esprimere tutta la profondità dell'identificazione con il peccatore, che viene imposta a Gesù e da lui accettata. L'identificazione con il peccatore è imposta a Gesù e da lui accettata. Quella che è la verità del peccato, proprio quando lo si definisce come menzogna, qui sembra stare a sentire Hegel nella Fenomenologia dello Spirito, deve da qualche parte realizzarsi in tutta quella sua inesorabile durezza che è contenuta nel no del peccatore a Dio e nel no di Dio a questo no. Tutto questo poteva realizzarlo solo uno che in se stesso è tanto verace e autentico da essere in grado di riconoscere, sperimentare interiormente e sopportare la piena negatività di questo no. Bene, questo lo dicono tutti gli autori di ispirazione gnostica, eretica, e lo stesso Hegel lo dice nelle lezioni sulla filosofia della religione. Lì Hegel identifica il figlio con Satana, perché il figlio è quello che divide, divide l'unità del padre. E perciò dice che la dottrina trinitaria è comparsa soltanto a partire dagli eretici. Questo lo dice Hegel. Ma qui Baltasar dice che nel figlio c'è tutto il no del mondo a Dio. Lui lo sperimenta. Sopporta la piena negatività di questo no. Patisce interamente la sua contraddittorietà mortale, sciogliendone la durezza nel dolore. Lui sperimenta la contraddizione nella sua persona. Vanno qui accuratamente evitate false conseguenze. Non si potrà dire, cioè, che Cristo venga punito da Dio al posto del peccatore, ma in realtà la dottrina ortodossa della redenzione dice proprio questo, cioè che Cristo ha assunto la pena, non il peccato, perché Cristo proprio è venuto a liberarci dal peccato, non poteva assolutamente essere peccatore, in nessun senso. Lui ha sopportato su di sé la pena per i nostri delitti. Beh, questo per Baltasar è inaccettabile. E nemmeno che egli si senta dannato e maledetto da Dio e mandato all'inferno. Infatti, quello che noi ci immaginiamo come condizione infernale sussiste in forma di un odio per Dio. Non avrebbe alcun senso attribuire al crocifisso anche solo un qualsiasi risentimento nei confronti del Padre. E tuttavia la sofferenza prolungata e totale di ciò che spettava invece al peccatore, la separazione da Dio, forse la perfetta e definitiva separazione. Questo è senz'altro possibile come esperienza del Figlio di Dio. Dunque il Figlio di Dio si è separato per sempre, eternamente da Dio. Cos'è l'inferno? L'inferno è quello che subisce il Figlio, la separazione da Dio. E dove sono i peccatori? I peccatori sono quelli che hanno scaricato sul Figlio le conseguenze dei loro peccati, ma loro si mantengono fermi nei loro peccati. Perciò Dio salva tutti, perché li ama anche quando sono peccatori. Dunque tutti questi sono in Dio, di fronte a Dio, e fanno fallire Dio, che è quello che dice più avanti von Balthasar. Dunque Cristo è in qualche modo il più stupido di tutti gli uomini. È quello che serve al peccatore per mettersi orgogliosamente di fronte a Dio. Vediamo a pagina 473. Solo ora, solo dopo essere penetrato nella regione delle tenebre, o piuttosto nel caos dell'umano peccato, Gesù ha ottenuto la perfetta conoscenza dell'uomo, una conoscenza che non è solo quella carismatica, né solo quella sperimentale ricavata dalla tentazione, bensì la conoscenza esaustiva di quanto è terribile il peccato e di quanto sia il dolore che procura. Colui che rivela questa sua assoluta conoscenza dell'uomo è nello stesso tempo l'agnello che, come sgozzato, siede sul trono di Dio e manda i sette spiriti di Dio su tutta la terra. Egli è l'unico che può spezzare uno dopo l'altro tutti i sigilli del libro della storia del mondo, eccetera. Perciò egli è l'essenziale unità di misura in base a cui l'uomo può e deve essere misurato in ogni sua dimensione. Quando si dice che ogni ginocchio in cielo, in terra e sottoterra deve piegarsi davanti a lui, allora con questo sono indicate anche tutte le dimensioni dell'umano, dal mondo celeste a quello terrestre, a quello infernale, di cui Freud ha detto: acheronta movevo, cioè Freud citando Virgilio. Un altro ha saputo forzarne le porte, come ci viene rappresentato dalle immagini pasquali della tradizione orientale. Dunque, Cristo è quello che abbraccia dal di sotto tutto il peccato del mondo, lo subabbraccia, come dice più avanti. Purtroppo tutti questi testi sono molto intensi, vi chiedo di avvisarmi. Troviamo dunque una collaborazione attiva dell'uomo all'inferno in cui Cristo è. Pagina 480. In Gesù ci conosce, noi conosciamo Gesù, dice: egli è la nostra vittima sacrificale nel senso del tutto triviale. Cioè siamo noi che sacrifichiamo Cristo, cioè lo uccidiamo. Ma proprio così ci fa diventare sua vittima sacrificale, poiché, come già detto riguardo alla confessione, egli in sé ci presenta e ci offre a Dio, a tal punto che il Padre non ci può più considerare da altra prospettiva che non sia quella del Figlio donatosi in sacrificio. Questa è anche la definitiva conoscenza che Dio ha di noi. Infatti, proprio in vista di ciò, siamo stati originariamente creati per essere nel Figlio e stare davanti al Padre. Dunque, piuttosto dobbiamo partire solo dal fatto che l'autodonazione del Figlio è l'unico e vero sacrificio, adeguato ed eternamente valido, offerto a Dio una volta per tutti e quindi anche per oggi, come dimostra la lettera agli Ebrei, e che in esso tutti siamo coinvolti. Ma dobbiamo pure attivare, coinvolgendoci noi stessi nell'atteggiamento e nell'atto di tale sacrificio. Al riguardo non c'è proprio niente da demitizzare. Che vuol dire che non c'è niente da demitizzare? Che noi facciamo il sacrificio, cioè sacrifichiamo Cristo. In Baltasar c'è sempre una doppia lettura, perché è dialettico, dunque gli opposti coincidono. Se uno legge Baltasar ingenuamente, potrebbe cercare di trovare quello che dice la tradizione, ma sbaglierebbe, perché se uno legge con attenzione i testi, trova in realtà l'opposto di quello che dice la tradizione. Andiamo ancora avanti, troviamo la Teodrammatica, volume 4, la soteriologia, la spiegazione di ciò che sarebbe la salvezza. Ci sono tanti testi qui da indicare. Andiamo alla pagina 296, si riconosce che in questa acme e peripazia del teodramma, che come tale già include per anticipo l'atto finale, l'escatologia, devono cadere più che mai le barriere tra i logi e i trattati teologici. Tutto è simultaneamente ingaggiato, alla sua parte appartiene alla scena. L'atto centrale, il rapporto dell'agnello che porta i peccati verso i peccatori, è interpretabile soltanto da una parte. Il presupposto intradivino presta a tanto la premessa di fondo, e dall'altro il prolungamento intracosmico, la teologia dell'alleanza dell'Antico e Nuovo Testamento, si aggiunge come complemento. Dunque l'escatologia è già compiuta, non è qualcosa che deve venire, è qualcosa che noi scopriamo entrando nella Trinità. Infatti, che l'evento della croce può essere considerato solo su sfondo trinitario e che solo nella fede può essere interpretato, lo dice la Scrittura, eccetera, in modo così chiaro, nel suo primo motivo, che il Dio, il Padre, ha donato e sacrificato al mondo il Figlio per amore, e nel suo motivo quinto, dove ogni dolore, fino all'abbandono di Dio, viene in senso proprio ricondotto a questo amore, che una soteriologia non è praticabile se non partendo di qui. Il richiamo all'unione ipostatica non può allora sicuramente mancare. E come, altrimenti che come Dio, l'uomo Gesù avrebbe potuto portare e togliere il peccato del mondo. Ma Gesù intende la sua ora come quella per lui disposta dal Padre, solo a partire da essa lo Spirito diverrà libero per il mondo. Solo per la croce e per l'abbandono della croce si rende manifesta tutta la distanza del Figlio dal Padre. Lo Spirito che li unisce entrambi in loro, il loro noi, appare nella perdita dell'unità addirittura come pura distanza. Ripeto la frase. Solo per la croce, per l'abbandono della croce, si rende manifesta tutta la distanza del Figlio dal Padre. Lo Spirito che li unisce entrambi, il loro noi, appare nella perdita dell'unità addirittura come pura distanza. Dunque, questo Spirito è il contrario dello Spirito Santo. Non è l'amore, è la divisione. Dunque non è quello che noi chiamiamo Spirito Santo, è un altro Spirito che stabilisce la vita trinitaria. Dal momento che il Figlio, che porta in assoluto il peccato e l'alienazione da Dio, sembra aver perduto il Padre nella sua donazione e perdizione, le cose stanno come se questa rivelazione della Trinità economica soltanto renda piena la serietà radicata nella Trinità immanente. Questa è, come si sa, la ragione per cui Hegel incorpora il processo del mondo nell'interiore della storia di Dio. E qui compare Hegel. Certo, magari fosse solo Hegel. Se fosse solo Hegel, un resto di razionalità ci sarebbe, ma purtroppo è molto più vicino a Nietzsche che a Hegel. Infatti lui attacca Hegel, come Nietzsche attacca tutta la metafisica anteriore. Vediamo come l'inferno è in Gesù. Pagina 313, Teodrammatica. Voi capite anche che modo di parlare della Trinità come dramma, perché infatti è tutto rappresentabile come in un teatro, secondo lui. Il dramma tra l'uomo e Dio raggiunge la sua acme, poiché la perversa libertà finita getta tutta la sua colpa su Dio, come sull'unico imputato e capro spiatorio. E Dio se ne lascia totalmente colpire, non solo nell'umanità di Cristo, ma nella sua stessa missione trinitaria, dove nel mistero dell'ottenebrazione e dell'alienazione tra Dio e il Figlio, portatore del peccato, compare l'onnipotente impotenza dell'amore di Dio. Quanto vi si esperisce è il contrario di quanto effettivamente succede. Dunque la Trinità è il contrario di quanto succede. Che cosa succede? Che nel mondo comandano gli uomini cattivi mossi dallo spirito divisore. E Dio, lo stupido che sta lì, a prendersi il peccato del mondo attraverso il Figlio, che carica su di sé tutta la negatività dell'uomo contro Dio e dunque sperimenta la tenebra nel seno della Trinità. Si può quindi sostenere altrettanto bene che l'abbandono di Dio in Gesù è il contrario dell'inferno e che è esattamente l'inferno, tra parentesi, Lutero, Calvino, addirittura la sua estrema intensità. Dunque, i due opposti sono insieme, no? Gesù è l'inferno, è dunque il contrario dell'inferno. Poi ci sono molti riferimenti a Barth, che è uno dei grandi ispiratori. Sono innumerevoli i passi, purtroppo non abbiamo tempo qui. C'è la difesa di Pelagio, no? Perché sarebbe stato interpretato male, come faceva Hegel, no? Che gli eretici hanno fatto scoprire la Trinità. La pagina 355 troviamo una identificazione dello Spirito Santo con il demonio. Perciò di theosis, cioè divinizzazione, questa parola è sempre ambigua, perché come la usano i padri è qualcosa di legittimo, è la partecipazione della vita divina, la grazia. Come la usano i teologi moderni, piuttosto potrebbe andare anche nel senso di Pelagio, lodato da Balthasar, e dunque dell'autorealizzazione dell'uomo, come si vede in Runner e in altri. Perciò di theosis è possibile trattare solo all'interno dello spazio della cristologia. La legittima premessa, pertanto, è la non meno misteriosa possibilità dell'incarnazione di Dio. Se si prende sul serio questo mistero della discesa di Dio nella forma di una sua creatura, allora tale era la intuizione fondamentale dei padri greci, con la sarcosis è già data la theopoiesis. Essendosi ora l'archetipo, il figlio eterno che possiede l'eterna figliolanza del padre, conformato alla coppia così da imprimervi radicalmente la sua forma divina, eccetera. Solo in tal modo l'idea della theosis è radicata nell'incarnazione della parola divina, riceve la punta che la completa. Ancora prima che l'uomo emerga da se stesso come immagine di Dio per acquisire parte alla libertà offerta nella grazia della vita di Dio, l'assoluta libertà divina è penetrata nella regio peccaminosa e di similitudinis e nella prigionia della libertà finita. Ascendens in altum captivam duxit captivitatem, dedit dona hominibus, Efesini 4. Dunque, prima della creazione del mondo, Dio è entrato nella sua libertà nella regione della disomiglianza peccaminosa. Pagina 357. Dunque, se tutta la vita di Gesù era nell'incarnazione in avanti redentrice, nel senso in particolare dei padri greci, lo è in misura eminente quest'ora che tutto volge in adempimento. In essa il mondo peccaminoso e alienato da Dio viene assunto nella relazione infinita, ora economica, tra il padre e il figlio, e nell'esecuzione della missione del figlio, nell'espirazione sulla croce dello spirito, della missione di nuovo al padre. Questo spirito che accompagna, coesperisce e in qualche modo ricovera in sé l'intera missione del figlio, diventa lo spirito ispirato nell'umanità liberata, nella Chiesa di Cristo liberata nella passione. È lo spirito comune del padre che sacrifica il figlio e del figlio sacrificato e glorificato, lo spirito trinitario, ma che ha attraversato l'intera economia e che quindi possiede in sé ugualmente in unità il cammino verso la croce come il cammino dalla croce verso la risurrezione. Beh, sono tutte espressioni contorte, perché certo è l'inversione trinitaria, ma finalmente è sempre il padre che uccide il figlio. E questo lo fa per lo Spirito, che certo non è lo Spirito Santo. È chiaro che da questo punto ciò che succede nella Trinità in Cristo si prolunga nella Chiesa, perciò la Chiesa è al servizio del mondo. Cioè la Chiesa è fatta da noi stupidi che serviamo amando il mondo. Pagina 428. Una battaglia del Logos è oggi inevitabile anche all'interno del cattolicesimo. Non sarà possibile aggirarla mediante una ritirata strategica degli ortodossi dentro nascondigli. Essi devono aprirsi ai colpi dei metodi storico-critici. E questo è senz'altro possibile, dato che di fronte al fenomeno complessivo della fede cristiana e all'interna struttura delle testimonianze bibliche della fede, è possibile dimostrare la competenza delimitata di detti metodi, già che c'è da una parte la certezza nei testimoni di sapersi impegnati per un Cristo che si è dimostrato come uno che viene da Dio, eccetera, eccetera. A partire da sé, non assolutamente in quanto sostenuto e incentivato il loro entusiasmo. Tutto questo lo vede bene, lo vede senz'altro la fede dei piccoli e semplici, fede dichiarata beata. Infatti è chiaro che la beatitudine dei cristiani non è altra cosa che partecipare alla distanza peccaminosa del figlio dal padre, dunque entrare nell'inferno. Gli unici che non entrano nell'inferno sono i veri peccatori, perché questi mantengono ferma la distanza tra Dio, cioè loro sono consapevoli dei loro peccati, si dispiegano nel mondo, loro comandano. Invece noi siamo gli stupidi a imitazione di Cristo che prende su di sé il peccato con le conseguenze del peccato. Invece i peccatori sono peccatori ma non prendono su di sé le conseguenze del peccato. Perciò, come dice la von Speyer, in Cristo si separa il peccato dal peccatore e il peccato brucia nell'inferno. Ma questo inferno è in Dio. Dunque, no, ci sono tanti testi tremendi, voi capite che queste sono bestemmie. Perciò diceva Baltasar, se avessero letto e capito le mie opere principali avrebbero trovato abbastanza materiale per il mio rogo. Dunque, ma forse vi risparmio tante cose, poi interpreta il concilio, naturalmente contro il concilio Vaticano II, Baltasar, dunque sembra un conservatore, ma è perché è contro il concilio Vaticano II qui? Perché il concilio Vaticano II non distingue adeguatamente il mondo dalla Chiesa, perché fa l'illusione che ancora i cristiani possano intervenire nel mondo. Invece la realtà è che il mondo funziona da solo e comanda e dunque fa soggettare la Chiesa. Questo è ciò che vuole dire e analizza la Costituzione conciliare, Gaudium et Spes, eccetera. Poi parla della teologia della liberazione, in senso ambiguo, dunque anche quelli della teologia della liberazione sono degli stupidi, perché lottano come motivati dal cristianesimo, ma poi il mondo è quello che vince lo stesso. Ci sarebbero tanti elementi, faccio accenno soltanto alla Teodrammatica, volume quinto, qui parla molto dell'apocatastasi, dell'inferno come gioco. Il titolo di una delle ultime sezioni è Lo sconfitto e il vincitore. Dunque lui fa questo gioco di parole che vuol dire lo sconfitto il vincitore. Non che Cristo è il vincitore, è che il diavolo sconfitto da Cristo è il vincitore. Naturalmente la croce è in fondo all'inferno. Pagina 165. della Teodrammatica, volume quinto, che tratta degli aspetti dell'ultimo dramma. Aspetti dell'ultimo dramma. Noi quando moriamo entriamo in questo ultimo dramma. E qui troviamo i suoi meriti, cioè quelli di Cristo, sopravanzano non solo quantitativamente, ma qualitativamente i crimini dell'umanità. Non solo li riequilibrano, ma li subabbracciano, unterfassen, con la forza assolutamente unica dell'unione ipostatica. E conseguentemente, mediante immediato radicamento della sua azione riconciliatrice nella vita trinitaria. La croce di Cristo, che è stata caricata dei no peccaminosi degli uomini, può per conseguenza, così sembra, essere collocata sul limite più estremo dell'inferno. Anzi, al di là di esso, ovunque si verifichi un abbandono di Dio, abbandono accessibile unicamente al Figlio. In fondo all'inferno c'è la croce di Cristo. Così la necessaria riprovazione dell'uomo che ricusa l'amore di Dio appare come una sconfitta di Dio. In tal modo fallisce nella sua propria impresa di salvezza. Questo aspetto del giudizio deve essere posto in evidenza in base agli scritti neotestamentari, non come punto finale, ma di partenza per una riflessione successiva, approfondita. E in che cosa consiste? Approfondire l'ultimo atto come tragedia. Così finisce la Teodrammatica, no? L'ultimo atto come tragedia. Questa tragedia in Dio, perché certo se succede questo è Dio che è fallito di fronte ai peccatori. Dunque c'è una riflessione sul diabolico, sul mysterium iniquitatis. Lui concepisce la realtà come un crescendo di sì e di no allo stesso tempo, e questo crescendo è dentro a Dio. Dio tanto più ama quanto i peccatori tanto più lo odiano. E noi quando entriamo nella vita eterna entriamo in questo. Perciò lui dice: sono degli stupidi i cristiani se immaginano il cielo come i musulmani, pieno di belle fanciulle, eccetera. Dunque il cielo è una cosa drammatica, perché il cielo è essere come Dio, e Dio è il padre che è in una distanza assoluta dal figlio, il figlio che è in distanza assoluta dal padre per lo Spirito Santo, e dunque è quello che ha assunto tutte le conseguenze del peccato, e noi unendoci a Cristo assumeremo questo. Nella tentazione c'è sempre possibilità di risucchio nel satanico. L'uomo non scopre il peccato, lo deriva in qualche modo dal diavolo, prende parte al tutto il male prima causato dal diavolo. Sì, certo, esiste anche uno spirito maligno proprio di ciascuno, quasi che il diabolico possa erompere dall'interiore natura dell'uomo, ma ciò che al principio sembra tutto anodino e neutrale offre subito al diavolo un appiglio. In un altro punto si deve consentire con Barth, cita Barth: il luogo veramente speciale da dove si svolge la lotta tra Dio e il diavolo non è Dio stesso, per il quale il diavolo è già sconfitto e riprovato, ma è l'uomo Dio, Gesù Cristo. Dunque la lotta è dentro Cristo, che naturalmente non è Dio. Non è Dio che si abbassa personalmente a combattere contro il diavolo, Tuttavia costui, secondo l'Apocalisse, ha il suo posto anzitutto nel cielo, all'origine della missione del Figlio. Poi parla del dolore di Dio, naturalmente, come molti altri tre teologi, ma lui lo capisce in un senso molto più drammatico, appunto, che gli altri teologi. Finiamo nella separazione come unione, uno dei titoli della teodrammatica. Analizzate questo titolo, separazione come unione. Separazione come unione. Per chi medita la singolarità assoluta della relazione del Figlio verso il Padre, non dovrebbe più risultare discutibile il fatto che il Figlio, come Dio uomo, ha esperito un abbandono dal Padre che l'ha portato ben oltre lo Sheol e la Geenna. Egli che è asceso oltre tutti i cieli creati è lo stesso che è disceso nelle parti inferiori della terra, il quale inferiore, catotera come comparativo, ha potuto essere per lui unicamente l'infimo. Dovevano infatti piegarsi davanti a lui tutti i ginocchi dei terrestri, dei celesti, dei subterrestri. Un simile omaggio può essere tributato solo a uno che non ha preso solo parte al generale destino dai mortali, ma che è disceso ed è passato al di sotto del loro destino e di quello di ogni possibile lontananza e alienazione da Dio. Una simile distanza è tuttavia possibile solo all'interno della Trinità economica, che trasferisce l'assoluta alterità reciproca delle persone intradivine sul piano della storia della salvezza, con inclusione e in tal modo riconciliazione della peccaminosa distanza da Dio. Dunque, attraverso il Figlio, tutto il peccato del mondo si raccoglie e si inserisce nella distanza assoluta tra il Figlio e il Padre, che è peccaminosa, è il peccato. Ma questo è possibile perché l'origine di ciò che avviene nel mondo è in Dio. Dunque è l'infinita distanza, lui dice letteralmente, che è assoluta alterità reciproca delle persone intradivine. Qui non sta dicendo quello che dice la teologia classica, cioè che una persona non è l'altra, che si distingue per la relazione. Sta dicendo un'altra cosa, assoluta distanza intradivina tra il Figlio e il Padre. Infatti il Figlio assume tutta la negatività contro Dio, e perciò è chiaro che dentro Dio non solo c'è il peccato ma la tenebra. Vediamo pagina 225 e 26. Qui appare questa tenebra che è espressa anche da Hegel nella Scienza della logica, cioè la luce e la tenebra e la luce, ispirandosi a un mistico protestante, Jacob Böhme, del XVII secolo. La mistica e il protestantesimo non vanno bene insieme. Quando, perché Lutero non era mistico, proprio questo ha rifiutato il cattolicesimo. Dunque quando vanno insieme si producono dei guai. Dunque voi potete capire che in questa donna d'origine protestante, che sarebbe diventata mistica subito, quando si è convertita c'era qualcosa di strano. E questo succedeva a Jacob Böhme, perché all'inizio del protestantesimo rimanevano delle tradizioni cattoliche, perfino si sono prolungate fino al XVIII secolo nel pietismo. Quindi non è possibile nessun discorso circa un processo di Dio il quale solo attraverso l'alienazione peccaminosa del mondo e l'incarnazione e la croce del Figlio arriverebbe alla propria pienezza. Dunque qui sembra controbattere Hegel, in realtà sta dicendo non è quello che dice Hegel, perché Dio ha già questo. Non è che Dio deve risultare dal processo del mondo, è che il processo del mondo risulta da Dio. L'amore trinitario è da sempre la compiuta Eucaristia. Dietro il sacrificio del Figlio al mondo sta la dedizione di amore essenzialmente sempre la stessa del Padre come sorgente dell'Eucaristia. Qui ci sarebbe tutto un discorso da fare sull'Eucaristia. Lui interpreta l'Eucaristia come la fa Freud, no? In Freud l'Eucaristia è l'apice del peccato dell'umanità, è riproporre il peccato originale, cioè quello che è passato attraverso i sacrifici umani, eccetera, e si è trasformato in una religione civile, come il cristianesimo, nella quale però permane questo atteggiamento sacrificale. Balthasar ha un'ossessione molto grande riguardo al sacrificio. La tenebra in Dio è solo come una proprietà della sua luce eterna, d'essere impenetrabilmente superluminoso. Questo è Hegel, questo è Böhme, ed è una citazione della von Speyer, naturalmente, perché tutto questo volume della teodrammatica è fatto con le citazioni della von Speyer. La tenebra in Dio è una proprietà della sua luce eterna. Se allora nel mondo la notte del peccato si contrappone al mistero divino della luce, la nostra tenebra non sta tuttavia di fronte alla sua luce come un assoluto di fronte a un assoluto. Anche la tenebra del peccato non cade fuori dal potere di Dio. Perciò è possibile che Dio avvolga graziosamente la nostra peccaminosa tenebra con la sua tenebra più grande, e che copra la nostra miseria dentro la sua grazia. Si vede di qui che la potenza di Dio e la sua bontà sono ugualmente infinite. Bene, questa è una citazione della von Speyer che bisogna prenderla come sua, perché lui dice che è la stessa cosa, la dottrina della von Speyer è la sua, e questo non è altro che il protestantesimo molto degenerato in questo miscuglio con la mistica. Per il momento vi lascio, credo che abbiate avuto abbastanza. Quando, dopo il convegno romano a cui partecipò von Balthasar con Speyer, e von Balthasar fu accusato di espressioni in cui avrebbe detto l'inferno è vuoto, von Balthasar poi risponde nel libretto Breve discorso sull'inferno dicendo: ma che razza di espressione è questa? Come avrei mai potuto dire che l'inferno è vuoto? In effetti non dice che l'inferno è vuoto, perché nell'inferno c'è solo qualcuno, c'è Gesù, quindi non è vuoto perché c'è solo Lui. Purtroppo questo è veramente blasfemo. E quindi Lui, il Figlio, è colui che va all'inferno, mentre tutti i peccatori sono i veri eroi che vanno in paradiso. E lo stesso, la civiltà cattolica recentemente, con un articolo, ha risposto alle accuse contro questa accusa rivolta a von Balthasar di dire che l'inferno è vuoto, dicendo che von Balthasar non avrebbe mai detto. Evidentemente non si è letto un po' tutti questi testi che il professor Anderegen ha citato, soprattutto la teodrammatica, nella quale si vede che alla fine credere è veramente un dramma. Quindi chi non crede, il peccatore, colui che vive lontano da Dio, è il vero eroe. Più che di una discesa agli inferi, si dovrebbe parlare quindi di una caduta nell'inferno. Cristo è caduto ed è rimasto lì, e purtroppo è stato sconfitto. E noi siamo bravi quando pecchiamo e sconfiggiamo eternamente Cristo. E questo è diabolico. È il diavolo che vuole sconfiggere Dio. Grazie professor Anderegen per questa sua chiara esposizione, soprattutto documentata, perché ciò che è importante è documentare, in quanto potrebbe apparire quasi una reazione verso questi teologi illustri per un motivo piuttosto tradizionalista. È assolutamente falso, in quanto queste posizioni teologiche sono una vera disperazione. Se noi seguissimo questa teologia saremmo veramente eternamente disperati, perché saremmo quegli stupidi che con Cristo portano i peccati e dunque noi siamo dannati mentre i peccatori sono salvi. È assurdo. Grazie professore Andrei. Salve Maria.